Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Io penso che se tu fai delle cose che ti piacciono e per quanto riguarda la musica, dai emozioni agli altri, quello è l'unico modo per essere coerenti e per... se no, sì, la rivoluzione la puoi anche fare con la musica, la puoi fare con tutto. A questo punto è meglio proprio farla nelle strade, così. Cioè, se fai musica devi soprattutto dare emozioni agli altri. La musica è un territorio in cui soprattutto devi dare emozioni. Emozioni, dunque. Ecco qual è il piatto forte dei Magnifici Destini di oggi. Emozioni che nascono dalle corde di una chitarra, da una voce forte, schietta, intrisa di inflessioni dialettali e inglese ciancicato. E se non dovesse bastare, ci aggiungiamo un'armonica, un kazoo e un tamburello, tutti suonati dalla stessa persona, un menestrello di strada che ha sempre guardato avanti, dritto per la sua strada, con il mento puntato in alto e gli occhiali da sole immancabili a riflettere tutto quello che non deve arrivare agli occhi. La musica ha questa magia, che riesce a intrufolarsi nei posti più impensabili e nelle forme più incredibili. Così un giorno è finita a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, e si è posata sopra una casa situata in un viale, Campi Flegrei appunto, al numero 55 nel quartiere di Bagnoli. Bagnoli è sterminata. Un impero. Uno dei tanti, della pura materia e della pura potenza. Cos'altro ormai possiamo creare? Questa è la Bagnoli descritta da Guido Ceronetti, apprezzato scrittore e drammaturgo torinese. Ed è proprio di una creatura di Bagnoli che parleremo oggi, di uno dei suoi figli più amati. Un rocker, e su questo non c'è dubbio. Un innovatore, un cantautore anche, e la lista potrebbe continuare. Ma prima è meglio munirsi di tutto il necessario per un lungo viaggio, perché, come avete sentito, è sulle strade che bisogna andare per seguire le orme del nostro protagonista di oggi. Una delle voci più taglienti e affilate dello stivale. Edoardo Bennato. Campi Flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa, vecchio pianino suona per me quella canzone. Campi Flegrei. Non è un paese, non è una città. Così lo stesso Bennato descrive la zona dei Campi Flegrei in una delle sue canzoni. Un territorio di natura vulcanica dove il terreno ogni tanto si abbassa, forse per poter ammirare meglio Nisida, l'isola che si staglia proprio davanti agli occhi di Edoardo e che si trova proprio di fronte a Bagnoli. Che per lui, nato lì il 23 luglio 1946, è molto più di un semplice quartiere. È innanzitutto il suo luogo d'infanzia, dove cresce e impara a suonare, ed è certamente casa sua ancora oggi, nonostante le mille peregrinazioni e i continui spostamenti. Ma oltre a questo, Bagnoli è anche una specie di tatuaggio, un timbro che ti porti appresso e che sbatti su un foglio ogni volta che ti si para qualcuno davanti e cerca di incasellarti. Io non sono proprio di Napoli. Sono della periferia di Napoli. Lo sappiamo. Bagnoli. Infatti da ragazzini diciamo: mamma, senti, domani vado a Napoli. Prendevamo la Cumana, andavamo a Napoli. Però Bagnoli, non dico che è un ghetto, però sai, il fumo dell'Italsider, le sirene dell'Italsider hanno creato anche un... tutti quanti noi di Bagnoli è come se avessimo un po' di rabbia in più. Eppure non sembra rabbioso il piccolo Bennato nei primi anni della sua vita. Anzi, cresce insieme ai suoi due fratelli più giovani, Eugenio e Giorgio. L'Italsider, oltre a emettere sbuffi e rumori, è anche l'azienda dove lavora papà Carlo, il che significa qualche ora di svago nei circoli riservati agli impiegati, nel caso specifico il circolo canottieri di Bagnoli, dove può giocare a pallone e fare il bagno. E in mezzo a quel mare di spensieratezza da qualche tempo, c'è una novità che fa scatenare tutti e che fa sognare il piccolo Edoardo. Il jukebox. il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Succederà spesso di sentire Bennato cantare di tutto quello che lo ha circondato e influenzato fin da bambino. È il suo modo di comunicare, e non importa se si tratti di un evento epocale o di una semplice macchina che fa sentire i dischi. Il jukebox, per Edo, è una specie di scatola magica che ipnotizza. E c'è di più, perché a Napoli si trova una delle basi NATO più importanti e strategiche del Mediterraneo. Il che non avrebbe nessun valore particolare se non fosse che i Marines che la popolano, già provati dalla lontananza dalla loro amata America, non intendono rinunciare a quell'ondata di musica nuova e travolgente che è partita dal loro paese. E così Napoli diventa il principale scalo europeo del rock and roll. Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. Edo sintonizza le orecchie su questo nuovo sound che rapisce. E non è il solo. C'è chi pensa che anche l'Italia possa cantare e ballare al nuovo ritmo. È Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, che insieme ai suoi rockers apre le porte e le danze dello stivale al nuovo sound, con quel tocco partenopeo che lo rende unico. Per Bennato è una gioia sentire come il suo dialetto ben si adatta al rock e rimane lì con l'orecchio teso a catturare ogni singola nota e la musica che piano piano lo avvolge. Dopo Peppino è il turno dei genitori che, in cerca di qualcosa che impieghi i ragazzi anche d'estate, ingaggiano un maestro di musica che insegna a suonare ai loro figli. Mai decisione si rivelò più azzeccata. Nasce il trio Bennato. Il maestro trovò terreno fertile. A me comprarono una fisarmonica. Edoardo si diresse subito verso la chitarra e Giorgio alle percussioni. Edoardo era prepotente, essendo il più grande, ma era anche intonatissimo. Io con la fisarmonica non perdevo un colpo e Giorgio pure era molto dotato. Dovevamo essere una cosa veramente spettacolare. Parola di fratello Eugenio. Non c'è neanche il tempo per la famiglia Bennato di capire cosa stia succedendo e a quale velocità. La musica ha invaso la casa e non se ne andrà mai più. L'evoluzione è fulminante. Il trio dei piccoli fratelli conquista prima gli amici, poi il palco del circolo, per arrivare in TV ai programmi dei bambini. C'è persino spazio per una piccola tournée in Venezuela. Incredibile. Poi un giorno il trio si divide, se così si può dire, ma non ci sono dollari o manager a sconvolgere gli equilibri. I ragazzi, ormai adolescenti, semplicemente hanno idee diverse sulla musica. Edo, in particolare, ha una nuova passione. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Durante gli anni 60 è dura fare una scelta definitiva e portarla avanti. Ci sono i Beatles, i Rolling Stones, c'è Elvis, e questo solo per citare i mostri sacri. In mezzo a loro si intrufola un certo Bob Dylan, che mischia il blues e il folk con dei testi che impressionano per qualità e profondità. E poi c'è l'armonica, e fa tutto da solo. Per Bennato è un'altra stella che si piazza nel cielo a indicare la direzione, che una volta terminato il liceo artistico diventa Milano. Si va al nord per studiare architettura, con la chitarra sempre sotto braccio. Ci sono ancora due anime che lottano all'interno di Edo, e non si trova ancora il vincitore. Ma un favorito c'è, e come? Milano e Bennato, davvero uno strano rapporto. Non si direbbe, ma c'è sintonia. Sarà per il carattere schivo di Edo, una cosa rara per un napoletano, o forse per la laboriosità dei suoi abitanti, qualità che apprezza e che possiede anche lui. Ci sono anche le case discografiche, certo, che finiranno per avere sempre qualcosa che non lo convince. Sai, io penso che ci sta molta gente che, anche se fa della bella musica, ha fatto la scelta di farsela per conto suo, perché ha pensato che scendere a compromessi con certi meccanismi dell'industria era sbagliato. Anche questa è una scelta giusta, capito? Io inizialmente, cioè io l'ho fatto così un po' a tempo perso, perché facevo l'università a Milano, no? E quindi lo facevo con un po' di distacco, così, un po'. Frequentavo i corridoi delle case discografiche per cercare di capire cosa succedesse dentro. Questo per Bennato è un periodo cruciale. Passa il tempo a studiare libri e persone per cercare di capire che cosa fare. La chitarra è sempre con lui, ma il cantante napoletano non si limita solo a fare qualche puntata alla Dischi Ricordi, la casa discografica che la madre gli aveva indicato per provare a farsi conoscere. Trova anche il tempo per un viaggio a Londra dove aggiungere altro materiale alla sua formazione. In Inghilterra riuscì a costruirmi questo tamburello a pedale. Il tamburello a pedale io lo vidi, c'erano degli one man band davanti al cinema di Leinster Square, che sai, si formano delle code. Scoprì, inventai questo meccanismo, però lo feci col battente che dall'altra parte, cioè lo cambiai leggermente. E mi fu molto utile perché, sai, all'inizio della mia carriera non avevo molti mezzi, e quindi andavo da solo col tamburello a pedale, l'armonica, la chitarra, era autosufficiente, e mi è stato molto utile. Edo passa pomeriggi interi a spiare questi strani menestrelli piazzati negli angoli della capitale inglese. Li osserva, li studia e poi cerca di adattarsi. Quella dello One Man Band è una spinta che viene da dentro, oltre che da fuori, e diventerà il suo marchio di fabbrica. Dopo un lungo viaggio di paure e di stenti, siete arrivati felici e contenti qui, nel paese dei balocchi. Dalle vostre case ne siete scappati, ma non vi preoccupate, siete benvenuti qui. Nel paese dei balocchi. È il momento di spostarsi, e va bene così perché a Edo piace muoversi, lui che preferisce dormire per terra piuttosto che in un letto. Si va a Roma per seguire Vincenzo Micocci, discografico che abbandona la Ricordi per trasferirsi nella capitale e mettersi in proprio. Bennato ha già qualche estimatore, ma il suo carattere schivo e il suo genere di musica così particolare lo spingono a guardare con una certa diffidenza l'industria dei dischi. Tanto che pur continuando a frequentare l'ambiente, nella sua mente si fa sempre più strada l'idea di fare da solo. Beh, non proprio da solo, perché Bennato è sicuramente un menestrello testardo con un obiettivo in mente, ma è anche un giovane cantante affamato di conoscenze ed esperienze che lo possano aiutare ad emergere. È proprio in questo periodo, nel bel mezzo del suo peregrinare, che incontra un uomo che lascerà il segno. Il suo nome è Herbert Pagani. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. È difficile incasellare Herbert in un sostantivo. Poeta, scrittore, pittore, cantante, attore, anche qui la lista è lunga. È l'arte, più sinteticamente, il collante che mette insieme le innumerevoli iniziative di Pagani. Di origini ebree, segue fin da piccolo i continui spostamenti del padre in Germania, ma soprattutto in Francia e poi in Italia. Herbert mostra sin da subito grande sensibilità artistica e già da adolescente esibisce innate capacità. Si toglie anche lo sfizio di diventare una delle voci storiche della nascente Radio Monte Carlo, contribuendo attraverso una conduzione e uno stile molto personale alla creazione del moderno linguaggio radiofonico. Murat Ambassador presenta Fumorama 7.3, la nuova trasmissione dei giovani dai 7 ai 77 anni, super satellite radiofonico in Fumoscope che vi porterà informazioni, voci e colori della nostra madre terra e dai pianeti circonvicini e circonlontani. Quando conosce Bennato, Pagani probabilmente pensa di avere poco in comune con quel burbero napoletano che vuol fare tutto da solo, ma si sbaglia e se ne accorge presto. Ad accomunarli, oltre alla sensibilità e alla passione per la musica, c'è l'amore per le arti visive che lui esprime con i suoi quadri, mentre Edo sfoga attraverso i mille schizzi e disegni che finiranno poi nelle copertine dei suoi dischi. Inoltre Pagani è uno dei traduttori italiani dei testi di Bob Dylan e tutti e due stanno cercando qualcosa. Insomma, lo spazio c'è ed è abbastanza grande per tutti e due. Due palme nel blu, il sole lassù, bambina di mare, ti voglio baciare, però cuore mio, non sono più io sono un playboy che vive alle Hawaii con te. Edoardo ed Herbert finiscono per travolgersi a vicenda. Il primo contribuisce allo sdoganamento pop del poliedrico artista ebreo, mettendo mano ai testi delle sue melodie, da cui usciranno pezzi come Ai Le Hawaii, che avete appena sentito, e che viene accolto bene dalla critica e dal pubblico. Pagani, dal canto suo, lavorerà ai fianchi Bennato, mettendogli a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze. La collaborazione dà ben presto i suoi frutti. C'è una casa discografica nata da poco che ha grandi ambizioni e ha messo gli occhi su Edoardo, su cui puntano per affiancarlo alla nuova stella nascente della melodia italiana. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Bel regalo che ha fatto l'amico Pagani a Edo. L'ha portato alla numero uno, la casa di Mogol e Battisti. E di per sé questa dovrebbe essere una grande conquista. Ma il destino proprio non ne vuole sapere. Pur imparando molto, Bennato non riesce ad approfittarne per spiccare il volo. Ce n'è sempre una. Un Mogol ispirato ai testi solo con il suo fido Lucio. Tentativi che non decollano e rapporti personali che non ingranano. Tutto questo nonostante il continuo sostegno di Herbert e la consapevolezza di poterci riuscire che non viene mai a mancare. Ma è evidente che la soluzione Edo la dovrà cercare da un'altra parte. Basterà seguire le indicazioni. Una volta c'era Lorenzo il Magnifico che tutelava gli artisti, anche perché si presuppone che gli artisti spesso siano più sensibili, sì, ma anche più vulnerabili. E quindi c'era Lorenzo il Magnifico che badava agli arti, faceva in modo che gli risolveva i problemi pratici e poi loro si sfogavano, cioè si facevano le opere d'arte. Adesso c'è l'industria discografica e meno male che sembrano sempre navi che stanno per affondare da un momento all'altro. I Magnifici Destini è ancora sulle tracce di un napoletano con l'anima da girovago e la lingua tagliente. Bennato e i discografici, un rapporto che non riuscirà mai a decollare. A cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, a volerla dire tutta, le distanze sembrano enormi. L'esperienza alla Romana numero uno, infatti, la casa di Battisti e Mogol, da Edo è considerata un mezzo fiasco. Per lui c'è un mesto ritorno a Milano e la sensazione che le occasioni stiano per finire. Per fortuna c'è l'amico Herbert Pagani a risolvere tutto. Avrà modo di constatarlo anche il nostro protagonista. La conoscenza e l'incontro con quell'uomo un po' fuori dal comune rappresenterà davvero una svolta. Bennato decide di accompagnarlo in Cile a un festival della musica per dare come sempre il suo contributo. Lontano dai problemi e dai pensieri, il cantante napoletano si rilassa e si ferma anche qualche giorno in più rispetto all'amico. Sarà la decisione giusta. Solo, a migliaia di chilometri di distanza da casa e dai corridoi dell'industria del vinile, Edo rinasce, anzi, nasce. Una settimana, un giorno, solamente un'ora, a volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta e ti ruba quello che hai. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forte, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. La prima pietra è il brano che avete sentito. Edoardo ne scrive il testo e la musica in Cile e sa di avere trovato finalmente la strada giusta. Caricato da quell'episodio una volta tornato in Italia, si occupa di seguire la scia ispiratrice e registrare altri pezzi. Alcuni in tasca da un po', altri nuovi. Il risultato è un album intero che prenderà il nome di Non farti cadere le braccia, dal titolo di uno dei singoli contenuti nel disco. Bennato consegna il pacchetto alla Ricordi, dove è tornato, e incrocia le dita. Nella copertina c'è il disegno di un fiammifero, a conferma della sensazione che questa sia per lui l'ultima chance. Bisogna crederci. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo. Una musica per pochi amici, come tre anni fa. Strano destino quello dell'album Non farti cadere le braccia. Pur contenendo un buon numero di pezzi storici e più amati di Bennato, come Un giorno credi, Rinnegato, Una settimana e un giorno e Detto tra noi, l'LP riscuote un tiepido successo, nulla di più. Ma c'è qualcosa che i dati di vendita non possono registrare: la consapevolezza. Ricordo che qualche mese dopo l'uscita dell'album, del primo album, io, sai, ce l'avevo messa tutta, però l'album non andava bene, quelli della Rai avevano detto che la mia voce era sgradevole, così. Siccome io avevo fatto 9 anni di gavetta, sai, ero, a un certo punto chiamai il direttore della Ricordi, disse, lui non mi fece neanche parlare, disse, Edoardo, so già quello che vuoi dirmi, guarda, cambia mestiere, lascia perdere, tu fai l'architetto, e fai l'architetto. Io allora mi giocai l'ultima carta, mi piaffai col tamburello a pedale, appunto, davanti alla Rai a Roma, passavano i giornalisti rampanti di Ciao 2001, quindi mi mandarono a un festival e io vidi la mia vita che cambiava da un minuto all'altro. Cambia così la vita di Edo, in un modo inaspettato, o meglio, inaspettato per lui. Fortunatamente non sono sempre i numeri a comandare e il buon lavoro fatto con Non farti cadere le braccia trova estimatori sia tra gli addetti ai lavori che tra gli ascoltatori. In ogni caso, la via scelta è la strada, i festival, i concerti. Ed è giusto così perché ben nato nella strada si è sempre trovato bene. Ora è tempo di battere quel tamburello a un ritmo indiavolato. Inizia per Edo un periodo che non avrà eguali e che definire movimentato sarebbe un eufemismo. Trascinato dall'entusiasmo e dagli applausi, Bennato gira l'Italia infilandosi in ogni festival e palazzetto che gli capita a tiro. Lo fa a modo suo, caricandosi in macchina i suoi collaboratori più fedeli, quelli che lui chiama gli amici del cortile, tra cui figurano il fratello Giorgio e talvolta anche l'altro fratello, Eugenio. È un tour simbolico fatto su misura per lui. Sono migliaia i chilometri che percorre dormendo sul sedile, portandosi dietro il materiale per esibirsi, arrabattandosi, improvvisando e guardando in faccia gli spettatori. Va avanti per circa 3 anni così, mettendo insieme altri 2 album. Il risultato è la conferma di essere diventato finalmente un cantautore. Cantautore. E Pagani, che fine ha fatto? Beh, il tempo delle collaborazioni con Edo è finito. Pensare di poter trattenere una mente sempre in movimento come quella di Herbert è davvero una follia. Per lui ora ci sono altri esperimenti, altri progetti, anche se il tempo sarà poco. Qualche anno dopo, infatti, una malattia incurabile se lo porterà via. Ma questo non gli impedirà prima di passare alla cassa per ritirare quanto gli spetta. Pagani, infatti, troverà il modo di lasciare il segno, mettendo la sua firma su uno dei testi più conosciuti dell'intera discografia italiana, quelli di Teorema di Marco Ferradini. Evidentemente la collaborazione con Edo ha avuto buoni frutti anche per lui. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. L'energia e la rabbia che esce dalle canzoni di Edo di quegli anni sono la fotografia migliore del periodo che sta vivendo, anche se ogni tanto la situazione gli sfugge di mano. Le sue musiche e i suoi testi, infatti, pieni di ironia graffiante e ritmi indiavolati, lo scaraventano nel bel mezzo della lotta ideologica che sta sconvolgendo l'Italia e che sta andando ben oltre la semplice scaramuccia verbale. La sola cosa che Bennato vuole fare è portare la sua musica in giro, che si tratti di una piazza o di un paese, di un festival o di un raduno politico. Ma non sempre lo scopo viene capito. È il periodo delle Brigate Rosse e delle rivolte studentesche, e spesso, suo malgrado, Edo si ritrova di fronte a persone che non si accontentano di svolgere il ruolo di spettatori. E in un attimo i battibecchi possono sfociare in risse. C'è a chi va peggio. Nel 1976 al Pala Lido, a De Gregori toccherà subire un vero e proprio processo da parte di alcuni giovani che gli chiederanno un'adesione più marcata verso la protesta. Ma Edo in fondo è diverso. E questa diversità lo terrà al riparo da guai grossi. In fondo lui è solo un cantante che ha sempre amato divertirsi facendo musica. Oggi stavo in macchina e stavo sentendo un LP di Otis Redding, sai? Sì. Capito? Io l'ho fatto anche in Coccodrillo. Ma che occasione, ma che affare! Ora però è arrivata l'ora di fare sul serio. Il momento è propizio, d'altra parte. Bennato è sulla cresta dell'onda, ha già fatto molta strada ed è davanti a una svolta. Edo ha qualcosa in mente, qualcosa che gli vibra nel corpo da parecchio tempo. Nel 1956 io, Edoardo e Giorgio andammo al cinema Fiamma a vedere Peter Pan. Immaginate per un bambino che cos'è Peter Pan al cinema. È una specie di magia. Quando uscimmo, sia io che Edoardo prendemmo la scarlattina e nel delirio rivivevamo tutte le immagini di Peter Pan. Le favole, il territorio preferito di Edo, non solo per il loro alto valore evocativo che ben si adatta al suo modo di scrivere testi, ma anche per il dualismo che ne sta alla base e che anima i pensieri del cantante. L'istinto, la capacità di sognare contro la ragione e la realtà. Edo è chiaramente schierato a favore del primo e la lettura dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam non ha fatto altro che acuire questo divario e definire il suo modo di comunicare. Ma vedi, è il modo forse migliore per dire certe cose senza essere troppo grevi, troppo pesanti, moralisti, perché quando parli di certi argomenti corri sempre il rischio di essere un po' moralista, didascalico, quindi la formula è una formula ideale per raccontare certe cose aiutato da personaggi divertenti, pieni di colore. Sarà il mondo della fantasia, quindi, a far spiccare il volo a Edo. Saranno Pinocchio e il tanto amato Peter Pan a portarlo in trionfo. E insieme a loro, un mondo di personaggi che diventeranno indimenticabili. Siamo alla fine degli anni 70, con migliaia di chilometri alle spalle. I Magnifici Destini ha seguito passo passo il percorso di un cantante napoletano schivo, pieno di grinta e coraggio, che è cresciuto portandosi dietro la musica che usciva dal jukebox e i sogni che faceva da bambino. Ma c'è ancora qualche sorpresa in serbo. Se da una parte infatti gli incontri servono a cambiare direzione, talvolta le nuove strade necessitano di qualche punto di riferimento, che aiuti a capire che il percorso intrapreso è quello giusto. Il momento arriverà tra poco. Edoardo Bennato ora è un cantautore e le favole sono il veicolo. In piedi ad ascoltarlo, gente di tutte le età. È la vittoria dell'istinto sulla ragione. Molto spesso noi, sia come singole persone, sia come umanità, ci troviamo di fronte a certi problemi che non riusciamo a risolvere con la logica, col raziocinio, come dei muri che si parano davanti, che non riusciamo a superare. Ecco, secondo me in quelle occasioni dovrebbe venirci in aiuto proprio l'istinto anziché la ragione. In questo caso, forse, parlare di puro istinto sarebbe azzardato. Se da un lato Edo non ha mai smesso di ascoltare quella voce che proveniva da dentro e che lo spingeva a continuare a credere in quello che stava facendo, è pur vero che la fatica e l'abnegazione, gli innumerevoli concerti e le migliaia di canzoni suonate sono sempre stati lì a riempire il serbatoio durante il tragitto. Il risultato è qualcosa di grande, che a pensarci bene ogni tanto sembra incredibile. Gli anni che seguiranno ai tre album consecutivi dedicati alle favole non si limitano a consacrare il cantante, ma si divertono anche a giocare con le contraddizioni. Il burbero menestrello, l'one man band a cui piaceva suonare nei vicoli e per le strade, si ritrova ad aprire la stagione dei mega concerti negli stadi. Edo effettua due bagni di folla, prima al San Paolo e poi a San Siro, facendo uscire la musica dai palazzetti e dando il via a una nuova moda. Ma non è finita qui. Edo diventa uno dei testimonial dei mondiali di calcio di Italia 90, componendo e cantando insieme a Gianna Nannini l'inno ufficiale. Sempre più nazional popolare, chissà cosa passa per la testa di Bennato ripensando al giorno in cui si presentò armato di kazoo, armonica e tamburello davanti agli studi della Rai. Ma qualche piccola concessione allo star system non cambia certo le fondamenta. Edo è e rimane un musicista rock e blues, un ottimo musicista, a onor del vero. E non siamo solo noi a dirlo, c'è qualcuno che di questo tipo di musica se ne intende e che un giorno incontra Edo. Verrebbe da dire finalmente, perché è il punto di riferimento di cui parlavamo. E l'omaggio che ne segue pare davvero meritato. Il punto si chiama B.B. King. Right now, ladies and gentlemen, it's my honor to welcome to the stage a young man. This young man is very well known, not only in Italy, but he's known all over the world. Ladies and gentlemen, we're gonna have a little jam session. We're gonna get it together. First, I'd like to introduce and welcome to the stage Eduardo Bennato Donato, ladies and gentlemen. B.B. King, the King of Blues, insieme alla sua Lucille, l'inseparabile chitarra con cui ha stregato il mondo. Riley B. King e la sua infanzia nei campi di cotone, come tanti altri musicisti neri, prima di trasferirsi a Memphis e registrare con Sam Phillips, il tizio che fonderà la Sun Records e scoprirà Elvis. Ma questa è un'altra storia. Dopo parecchi anni passati a far vibrare la manona sulla tastiera della sua Gibson, B.B. King a Pistoia, durante il famoso Festival Blues, accoglie Bennato sul palco, che arriva, armato di chitarra e armonica, pronto a fare un po' di musica. Signor censore! Bennato non ha ancora smesso di suonare, e non potrebbe essere diversamente. Quando uno comunica attraverso uno strumento e ha ancora delle cose da dire, non può smettere improvvisamente. Perché siamo convinti noi di quello che facciamo, perché ci piace la musica, facciamo musica, non guardiamo al passato, guardiamo al futuro, con dei rischi chiaramente, perché questo comporta dei rischi. E il nostro obiettivo quando siamo sul palco è di attingere noi energia per poterla poi restituire agli altri. E poi soprattutto i testi sono legati all'attualità. Nemmeno la sbornia degli anni Ottanta ha cambiato questo suonatore di strada che in fondo ha cercato fin dal primo giorno in cui ha imbracciato la chitarra di essere coerente, sforzandosi di capire chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi, cercando di non farsi travolgere e ironizzando. Perché l'ironia, se sostenuta da un buon accompagnamento, è sempre l'arma migliore. Tu sai tutto sulla realtà del mercato, e qui io ammetto di essere negato, però inventare quel che non c'è, io forse son più bravo di te. Il destino di Edoardo ha voluto compiersi così, con i pochi strumenti che ha sempre avuto in mano, i fratelli e gli amici del cortile stipati in una macchina targata Bagnoli che girava l'Italia senza sosta. E nella testa la musica di un jukebox che sputava fuori ritmi e parole strane, provenienti da un mondo lontano, che per Edo è sempre stato il mondo delle favole.